2024 2024 di Enrico Pagliarini. Inizia una nuova puntata, quella del 13 ottobre 2012. Benvenuti o bentornati. 2024 è il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Oggi in regia c'è Valeria Bernardi, siamo in diretta, il nostro numero verde è 800240024. Poi potete utilizzare anche Twitter, Facebook, gli SMS, la email 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, iniziamo subito da un numero, numero 6 miliardi. Secondo l'ITU, l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di telecomunicazioni, il numero di abbonamenti di telefonia mobile, naturalmente abbonamenti ma anche carte ricaricabili, ha superato alla fine del 2011 i 6 miliardi, quindi siamo ben oltre i 6 miliardi. In un rapporto presentato questa settimana è stato aggiornato anche il numero degli utenti internet. Ufficialmente alla fine del 2011 eravamo a 2,3 miliardi di persone. Adesso cambiamo argomento e parliamo di sicurezza, perché Leon Panetta, il segretario americano alla difesa, ha detto alcune parole che forse non sorprendono gli addetti ai lavori, ma sono piuttosto preoccupanti. In recent weeks, as many of you know, some large US financial institutions. Ho detto, nelle settimane recenti alcune istituzioni finanziarie sono state colpite pesantemente con un attacco di tipo denial of service, comunque un attacco informatico, e il segretario americano alla difesa ha detto che un grande attacco informatico potrebbe provocare danni come quelli dell'11 settembre. The collective result of these kinds of attacks could be a cyber Pearl Harbor. Il risultato finale di attacchi di questo genere potrebbero rappresentare una cyber Pearl Harbor. Ricordate che cosa è successo a Pearl Harbor? Allora, gli Stati Uniti stanno tentando di non farsi trovare impreparati a questo appuntamento. Bene, oggi come vi dicevo parliamo anche di pubblicità online, l'abbiamo annunciato anche sul nostro sito internet, quella che potremmo definire la grande moneta della rete internet. Allora, buongiorno a Simona Zanette nel nostro studio, presidente di IAB Italia, benvenuta 2024. Grazie, buongiorno a voi. Lo IAB è l'associazione che rappresenta, che associa tutte le industrie che a vario titolo e a vario modo partecipano al mondo della pubblicità online. Interactive Advertising Bureau esiste in tutto il mondo. Voi vi occupate di pubblicità, avete presentato questa settimana nel vostro evento annuale una serie di dati che sono positivi, e questa è una cosa buona in questo mondo dove molte cose sono negative. Positivi in che senso? Ma sono positivi perché, guardando al mercato pubblicitario, che quest'anno per stima di Nielsen chiuderà un meno 8,4% rispetto allo scorso anno, dove aveva comunque già chiuso in negativo, il comparto della pianificazione digitale chiuderà un più 12% secondo noi. Quindi un comparto in crescita, un comparto sano. Prevediamo che per l'anno prossimo comunque ci sia nuovamente una crescita al più 10% verso un totale mercato che anche il prossimo anno segnerà, sebbene di probabilmente un solo punto percentuale, un segno meno. Quindi TV, radio, stampa, ai noi perdono punti, e invece tutto quello che avviene su internet, su mobile, che cresce molto, sta aumentando. Il valore della pubblicità su internet si sta adeguando all'uso che poi gli utenti fanno, o è ancora un valore basso? Quindi per far numero bisogna invadere la rete di messaggi pubblicitari. Purtroppo sì, siamo ancora con un livello medio abbastanza basso, anche perché fino a oggi è stato abbastanza difficile andare a profilare la comunicazione pubblicitaria in maniera puntuale, in modo tale da dare un estremo valore aggiunto all'investitore pubblicitario, però stiamo lavorando in questa direzione, quindi ci auguriamo che a breve, per esempio negli Stati Uniti, esiste questa modalità di pianificazione che si chiama real time bidding, che vale oggi già il 40% del totale mercato pubblicitario, così come in UK vale più o meno il 30%, che è una modalità di pianificazione pubblicitaria per gli investitori che viene fatta attraverso la profilazione dell'utente dell'utente finale secondo il suo percorso di navigazione, sempre nel rispetto della privacy e sempre andando a lavorare su dati che non sono dati sensibili, ma sono dati diciamo di interesse nei confronti di un argomento piuttosto che un altro. Quindi se io vado sul sito di una compagnia aerea piuttosto che su un sito di giochi online, il sistema capisce e magari mi propone la pubblicità adeguata. Assolutamente sì, il sistema cerca di capire quali sono i miei interessi per sottopormi un messaggio che sia vicino a questi interessi e che sia quindi meno fastidioso per l'utente finale. Ecco, a proposito di fastidio, mi metto dalla parte del consumatore, quale poi io sono tutti i giorni. Immagino che vi poniate il problema della pubblicità che in alcuni casi è fastidiosa, insomma, disturba, anche se poi l'alternativa in molti casi può essere pago il servizio e molti ascoltatori, navigatori direbbero subito no, non voglio pagare, quindi mi devo beccare la pubblicità. Questo però è un problema e soprattutto visto che il grande valore di internet è quello di poter profilare, quindi dire questo consumatore è interessato a viaggi oppure alla cucina, alla gastronomia, eccetera, eccetera, tira in ballo un altro grande tema che è quello dei cookies. Ecco, da questo punto di vista, che cosa sta facendo l'industria per essere meno invasiva, più delicata, ma pur sempre capace di rappresentare il consumatore per bene? È un equilibrio difficile. Sì, è un equilibrio molto difficile, però quella è la ricerca che stiamo portando avanti quotidianamente, appunto, come dicevo prima, attraverso queste piattaforme che raccolgono i dati di navigazione degli utenti e poi li rielaborano e li trasformano in profili per interesse. Stiamo provando a lavorare per essere meno invasivi e per arrivare in maniera più efficace anche per chi poi investe, perché è molto più interessante per un'azienda sapere che va a colpire un utente che è già preinteressato a quell'argomento rispetto a sparare nel mucchio. Dal punto di vista della privacy, IAB a livello europeo sta lavorando con la Commissione europea appunto per cercare di costruire una legge sulla privacy, che sia una legge sulla privacy che non penalizza il mercato da un lato, ma protegge comunque il consumatore. Il nostro interesse è comunque che l'utente sia sereno nella sua navigazione. Va fatta una distinzione importante fra dati sensibili e dati non sensibili. Una banca, per esempio, piuttosto che la pubblica amministrazione online, raccolgono dati sensibili che permettono di capire nome, cognome e tutti questo tipo di dati dell'utente. La profilazione per cookies, invece, mi dice che quell'IP, quel computer, ha sviluppato quel percorso di navigazione. Sono due cose molto diverse. Sì, non necessariamente che dietro c'è Enrico Pagliari. Assolutamente no, o Simona Zanetti. A proposito di cookies, voi avete una piattaforma, diciamolo anche agli ascoltatori, che è interessante. Sì, allora abbiamo costruito questo progetto con i 27 paesi europei. C'è un sito che si chiama youronlinechoices.eu nel quale ogni utente può accedere lo troverà. Ovviamente se è un utente da un IP italiano il sistema riconosce e gli proporrà la maschera in italiano. Intanto c'è un glossario che spiega bene che cosa sono i cookie, che cos'è la profilazione, eccetera eccetera. Poi c'è la possibilità di fare uno scan automatico del proprio computer, per cui in automatico il sistema ridà una maschera nel quale dice: guarda che tu, legato a questa IP, hai questi cookie che ti provengono da queste aziende, e consente di attivare o lasciare attivati o disattivare i cookie che uno poi non vuole, anche perché non dimentichiamoci che, per esempio, tecnicamente magari un utente finale non se ne rende conto, ma se io mi registro o faccio login e password per avere accesso alla mia email box, quando mi viene chiesto se voglio tenerli in memoria, per tenerli in memoria il sistema mi deve attaccare un cookie. Esatto. Ricordiamo questo sito internet, che poi metteremo anche sul nostro profilo Facebook, Your Online Choices. È scritto in inglese, quindi se non sapete bene l'inglese dovete farvi aiutare. Significa le vostre scelte online, per sapere che cosa viene tracciato delle vostre abitudini, e da questo sito potete anche selezionare e cambiare alcune delle preferenze sul vostro programma di navigazione. Allora, per completare il quadro del valore della pubblicità online, va detto che vale circa 1,2 miliardi online in Italia, con un peso sul totale di circa il 13-14%, quindi non vale come quello della TV, ma la TV scende e questo sale. Allora, anche se tutto su internet, lo sapete, è misurabile, in realtà è misurabile se siete all'interno dell'azienda che lavora, opera su internet. Allora, le associazioni devono fare delle stime. Per stimare quanto vale l'online, la pubblicità online, le cose non sono così facili, perché Google e Facebook non comunicano i dati sull'Italia e valgono circa la metà del mercato, soprattutto Google, per vari motivi questo, non ultimo il fatto che su questo fronte alcuni esperti dicono che queste aziende mantengono un profilo molto basso, molto discreto, perché c'è una querelle accesa tra gli operatori prettamente italiani, questi colossi, che pagano le tasse in luoghi dove l'imposizione fiscale è più bassa, e questo genera una serie di polemiche. E il luogo dove l'imposizione fiscale è più bassa in Europa è l'Irlanda. Più tardi parleremo di mappe, dopo tutte le critiche che sono state mosse nei confronti di Apple, e ci domanderemo anche: sono giuste o sono esagerate? 2024. Sono le 15:46 minuti, questo è 2024, potete comunicare con noi anche attraverso Twitter, se volete, molto semplice, @_Pagliarini. Poi potete trovarci anche come 2024 oppure sul nostro profilo Facebook, cercate appunto 2024. Stiamo parlando di pubblicità online che cresce e soprattutto potremmo dire si trasforma molto velocemente, si sviluppano nuovi formati video, si intreccia la TV tradizionale con i social network e di conseguenza anche la pubblicità si deve adeguare. C'è la frontiera, ad esempio, della pubblicità georeferenziata, e magari più tardi faremo un accenno, visto che parleremo di mappe, quindi quella pubblicità che è correlata al luogo dove noi siamo. Allora, anche per questi motivi ci vogliono persone con idee nuove, ci vuole creatività, e fortunatamente in questo settore lo spazio c'è, perché il settore, dicevamo, cresce, crea naturalmente posti di lavoro. Allora, Simona Zanette, che è con noi oggi, presidente dello IAB Italia, le professionalità si trovano, esistono percorsi formativi per entrare nel mondo della pubblicità online? Allora, diciamo che in realtà molte delle professionalità vengono formate in azienda e quindi questo lascia un ampio spazio di ingresso, soprattutto per quanto riguarda i giovani che si laureano in diverse facoltà, non per forza. La cosa da sfatare è che per entrare nel mondo della comunicazione digitale non bisogna essere degli ingegneri, non viene richiesta un'esperienza tecnologica tout court. Tra l'altro i giovani sono nativi digitali, per cui per loro l'utilizzo delle tecnologie è abbastanza normale. IAB, per esempio, che ha fra uno dei suoi principi quello proprio della formazione, fa un master annuale attraverso l'Università Cattolica a Milano e dal prossimo anno lo faremo anche attraverso l'Università La Sapienza a Roma, e a Milano noi ogni anno formiamo 30 ragazzi. Giusto ieri abbiamo dato i diplomi a quelli dell'ultimo corso, che si sono diplomati a luglio, che vengono immediatamente inseriti. Questi 30 ragazzi che si sono diplomati a luglio e che abbiamo premiato ieri sono già tutti inseriti in aziende del comparto digitale. Un'altra cosa interessante è che internet è abbastanza affine anche al mondo delle donne, perché essendo multitasking prevede una propensione all'orizzontalità delle cose, non alla verticalità delle cose, che è molto più maschile, e quindi diciamo che c'è un'alta percentuale di donne. Non dimentichiamoci per esempio che si sono formate delle aziende dove ci sono donne che lavorano da casa proprio attraverso internet, e ci sono un sacco di mamme blogger e così via. Ci sono anche tante donne che si sono reinventate delle professionalità rispetto a quello che facevano magari prima di sposarsi o prima di avere figli, quindi è un'opportunità sicuramente. Simona Zanette, grazie per essere stata con noi, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Tornando all'uso dei cookies, questi piccoli file di testo prevalentemente innocui naturalmente, che i siti installano nel nostro computer per tracciare le nostre abitudini, e in alcuni casi molto comodi, perché noi torniamo su un sito internet e magari ci sono alcune impostazioni che non dobbiamo reinserire a mano. Però a proposito di questo e dell'utilizzo che dei cookies ne viene fatto, il commissario europeo per l'agenda digitale, la signora Neelie Kroes, si è lamentata della lentezza con cui procedono i lavori di standardizzazione del Do Not Track, che è un sistema che va integrato nei programmi di navigazione per gestire la propria privacy e quindi anche tutte le informazioni che vengono raccolte dai network pubblicitari, e effettivamente questi lavori procedono molto a rilento. Già oggi comunque uno può, se lo ritiene opportuno, disattivare i cookies ad esempio di terze parti. Io sul mio browser, su Firefox, l'ho fatto e comunque se volete vedere ad esempio che cosa viene messo in rete, che tipo di informazioni, anche che connessioni ci sono tra il vostro computer e i vari network pubblicitari, perché noi adesso l'abbiamo fatta semplice, ma il mondo della pubblicità online è molto complicato, molto complesso. Allora, per Firefox e Chrome ci sono dei plugin, degli add-on che si chiamano ad esempio Privacy Fix, molto bellino. Collusion mi piace moltissimo, anche Track Me On, anzi Track Me Not, poi li metteremo scritti sul nostro profilo Facebook e anche magari nella nostra pagina su internet. Anche sui dispositivi Apple aggiornati al nuovo sistema operativo iOS 6 esiste la possibilità di controllare il tracking dei dati che Apple raccoglie per inviarli al proprio network pubblicitario. Allora bisogna cercare la voce Limita Ad Tracking, un sistema comunque molto interessante. Se uno ad esempio usa delle app per cercare un'automobile oppure va su siti di automobile, quell'informazione viene raccolta ed utilizzata per eventualmente visualizzare una pubblicità di automobili. Però c'è la possibilità appunto di disattivarlo, anche se la Apple ha fatto uscire il nuovo sistema operativo mettendo questo tracking, questo tracciamento delle nostre abitudini in modalità on, quindi acceso per sempre, fino a che non si disattiva naturalmente. Allora, la prossima settimana vi annunciamo che dal 17 al 19, quindi mercoledì, venerdì, a Milano ci sarà l'appuntamento annuale con SMAO, l'amministratore delegato Pier Antonio Macola. Ma allora diciamo innanzitutto il principio di base è: noi in 3 giorni offriamo non solo agli IT manager ma a imprenditori e management l'opportunità di capire come sfruttare bene le tecnologie, perché il segreto è parlare di business, non di tecnologie informatiche o di pratiche o di, diciamo, procedure, ecco. Quindi diciamo che sullo sfondo abbiamo le grandi tematiche, per esempio della collaborazione, quindi questi sistemi nuovi che sostituiscono i tradizionali meccanismi di collaborazione in ufficio, quindi consentono alla piccola impresa di aprirsi anche a reti più estese di collaborazione. L'idea, forse l'elemento un po' più innovativo, abbiamo questi due ambiti. Uno è quello delle app, quindi abbiamo un Mob App Contest, si chiama, fatto con il Politecnico di Milano, in cui portiamo sviluppatori di app, consumer e business, ed è un'occasione per le imprese per scoprire, ecco, concretamente come il talento italiano può essere di utilità per le loro aziende. L'altra area fondamentale è quella delle startup. Come ogni anno esiste in SMAO percorsi dell'innovazione. Noi riteniamo che la cosa più importante per la startup sia incontrare l'industria, quindi l'imprenditore, perché è lì che nascono le vere opportunità per il nostro mercato, e quindi è un'area che quest'anno vedrà oltre 100 partecipanti, e direi che è la parte che non si può non visitare in SMAO. Digital News. Apple e le ferrovie svizzere hanno raggiunto un accordo che permette alla Apple di utilizzare il celebre orologio che si trova nelle stazioni svizzere. La lancetta dei secondi di questi orologi è di colore rosso e ha la forma della paletta del capo stazione. Un orologio disegnato proprio per le ferrovie svizzere nel 1944 da un ingegnere di Zurigo. Apple aveva inserito questo orologio con lo stesso design nel nuovo sistema operativo, ma le ferrovie svizzere giustamente avevano protestato. Digital News. Secondo i dati presentati da Assintel, l'Associazione Nazionale delle Imprese ICT di Confcommercio, il settore IT chiuderà il 2012 a meno 3,2%. Negli ultimi 4 anni il settore ha perso quasi 3 miliardi di euro di fatturato. Purtroppo poche aziende comprendono il valore che la tecnologia ha per aumentare la competitività e la produttività, quindi anche per uscire dalla crisi. In Germania pensate che il settore segna più 4,1%, negli Stati Uniti più 2,8%, in Cina addirittura più 16,9%. Digital News. Amazon ha lanciato anche in Italia il nuovo Kindle Paperwhite, il nuovo ebook reader a più contrasto, lettere più nitide, disponibile dal 22 novembre a 129,189 euro per la versione 3G. Altra novità, un sistema di retroilluminazione per la lettura notturna. In una intervista alla BBC, Jeff Bezos, il numero uno di Amazon, ha confermato che Amazon non guadagna nulla dall'hardware. Eccolo qua. Yes, basically we sell the hardware at our cost. Dice, non guadagniamo dall'hardware, ma vogliamo guadagnare quando i nostri utenti usano i nostri strumenti e non quando li comprano. Beh, questo lo dice lunga sulla strategia di Amazon, che sapevamo, ma questa è una conferma ufficiale. Tra poco le notizie di GR24, noi riprendiamo nella seconda parte parlando di mappe, parleremo naturalmente di Apple, ma anche di quello che offre in alternativa il mercato. A tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Four. Seconda parte di 2024, abbiamo un countdown. One and lift off. Lift off of the SpaceX Falcon 9 rocket, launching Dragon to the International Space Station and returning cargo resupply missions to US soil. Abbiamo fatto sentire il countdown di domenica notte, era domenica notte in Italia, la sera della domenica a Cape Canaveral, un conto alla rovescia per far partire Falcon 9, che è un lanciatore di SpaceX. Ne abbiamo parlato anche in passato con una capsula cargo chiamata Dragon. È, potremmo dire, l'inizio di una nuova era, una cosa che potrebbe sembrare una notizia per addetti ai lavori, in realtà inizia una nuova era, perché per la prima volta la NASA si è affidata ad un'azienda privata per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale, per far arrivare materiale scientifico, ma anche viveri, acqua e vario materiale per gli astronauti. È la prima volta, diciamo che è la seconda volta che Falcon 9, o meglio la sonda, il cargo Dragon, raggiunge la stazione spaziale, ma è la prima volta ufficiale con questo nuovo contratto che è stato firmato da SpaceX e NASA, che vale 1,6 miliardi di dollari per 12 lanci. Inizia una nuova era e la cosa è importante e interessante anche per l'Italia, perché lo ricordo e mi piacerebbe che la cosa fosse ricordata più spesso, che l'industria aerospaziale italiana, soprattutto nel sud Italia, vale, oltre che miliardi di euro, anche migliaia di posti di lavoro, e quindi è bene che sia chiaro che è iniziata una nuova era, c'è spazio anche per le aziende private per nuove avventure nello spazio. Questo è un piccolo segnale che abbiamo dato a 2024. Luca Figini, buongiorno, bentornato a 2024. Buongiorno a tutti, ciao, grazie Enrico. Allora, noi adesso chiudiamo il capitolo spazio, anche se devo dire che poi le mappe, qualche cosa con lo spazio c'entrano, perché per costruire le mappe vengono utilizzati anche dati che vengono raccolti dai satelliti. C'è addirittura una società che si chiama GeoEye, Geo che sta per geografia, Eye sta per occhio, che ha lanciato, se non due o tre satelliti per fare fotografie che poi vendono a quelli che costruiscono le mappe. Abbiamo anche noi una costellazione di satelliti che è Cosmo SkyMed, e alcuni dati di questi satelliti vengono utilizzati anche per poi essere venduti a chi fa mappe. Quindi vedete che le cose poi... Sì, tra l'altro sì, senza satelliti non funzionerebbe il sistema GPS. È bravo, giusto. Perché senza i 32 satelliti che orbitano geostazionari intorno alla Terra non si avrebbe il segnale, quindi non potrebbero funzionare. Smartphone. No GPS, no maps. No maps. Esatto. Tra l'altro, a proposito di GPS, sapete che stiamo costruendo, dovrebbe essere pronto al 2014, il nostro sistema di navigazione satellitare, potremmo... più correttamente dire il sistema di posizionamento, perché il GPS ti dice la posizione, poi la mappa ti dice se sei su una strada o in una piazza o in campagna, se la mappa è precisa, naturalmente. E di questo parleremo. Ah, dicevo, a proposito del nostro sistema europeo, il Galileo, da poche ore sono in orbita, grazie ad una Soyuz partita dalla Guyana francese, due nuovi satelliti di questa costellazione, che appunto verrà completata, se tutto va per il verso giusto, nel 2014. Allora Luca, noi oggi vogliamo parlare di mappe che ormai si sono trasferite, potremmo dire quasi definitivamente, almeno per l'uso che noi ne facciamo in mobilità, sui nostri smartphone. Ti lancio subito una provocazione, visto che si è parlato molto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, noi ci siamo presi un po' di tempo per lasciare a Figini tutta una serie di test e di prove sul campo. Molti si sono lamentati delle nuove mappe che sono state lanciate da Apple. Giusto? Esagerato? Cosa ne pensi tu? Ma in senso assoluto forse il termine che userei è esagerato, però in tutto sommato è giusto, nel senso che Apple, la regola di vita, come anche ha detto Tim Cook, che è l'attuale amministratore delegato mondiale di Apple, ha detto che da Apple non escono prodotti se non sono quantomeno perfetti. E quindi quando provi un prodotto Apple, sia su un'app sia su un hardware, alla fine ti aspetti la perfezione. Scoprire che c'è anche un errore, se poi l'errore è abbastanza plateale, diventa una doccia fredda. Però detto questo, va anche detto che insomma il settore dei navigatori satellitari ha ormai una dozzina d'anni. E questa è la prima release di un software. E io mi ricordo quando le prime release dei software sono arrivate sugli smartphone, erano così, ma tuttora gli software affermati hanno dei problemi. Quindi fa clamore, è stato giusto per Apple scusarsi, ci sono delle cose che sono a volte fanno un po' sorridere sugli errori. A proposito, visto che tu te ne sei segnate alcune delle cose che... degli errori più clamorosi, vabbè, sì. Citiamoli giusto per far capire anche a chi ci ascolta e dice ma che cosa hanno combinato questi dell'Apple, perché diciamo che nella navigazione normale non accade nulla, cioè si va da A a B senza problemi, allora, alcuni ascoltatori ci hanno già scritto. Mettiamola così, la mappa si può vedere in due modalità, sintetizzando, quella vettoriale che è quella sotto forma di disegno, quella classica, e quella satellitare dove ci sono le foto riprese dai satelliti o fotografate con le auto, insomma le foto verosimili che interpretano la realtà. Il concetto è questo, che nella versione vettoriale iOS Mappe funziona discretamente bene, anzi piuttosto bene, fatto premesso che è la prima release con tutte le riserve del caso. I problemi nascono quando si va sulla versione fotografica, perché per esempio era sparita la Statua della Libertà. E adesso recentemente l'hanno rimessa, perché poi Apple si è messa in moto negli ultimi 10 giorni, ha fatto parecchie correzioni, però togliere simboli come la Statua della Libertà oppure seghettare il ponte di Brooklyn, piuttosto che rendere un circuito l'aeroporto di Toronto. Comunque, se anche prendo la Piazza Duomo a Milano, sembra bombardata, perché è completamente disconnesso il selciato, eccetera. Insomma, quando sbagli dei simboli o anche della posizione di certe zone, poi diventa tutto molto più eclatante. Apple sta lavorando per sistemare, ma ribadisco, sono errori che molti errori puoi trovare anche in altre mappe. Finché lo usi in modo vettoriale, funziona, ti porta da A a B e non ti fa scherzi. Quando vuoi vedere le foto vedi veramente le cose, alcune cose un po' divertenti, un ponte che segue un avvallamento invece che superare il fiume. Sì. Dunque vi ricordo il nostro numero verde, e ad esempio una delle domande che vi vogliamo fare per sentire anche il vostro parere è che cosa utilizzate voi, siete soddisfatti, che cosa vi aspettereste da un navigatore, perché c'è chi dice i navigatori mancano ancora di qualche cosa, alcuni vorrebbero di più anche se magari non sanno che cosa. A tra poco. 2024. Stiamo parlando di mappe a 2024. Luca Figini, perché le mappe sono così importanti, visto che fino a poco tempo fa, diciamo ancora oggi per chi non ha fatto l'aggiornamento al nuovo software, sui prodotti Apple veniva utilizzata la mappa di Google, il sistema di mappe di Google. Però effettivamente ci sono degli investimenti di milioni di dollari per creare il proprio sistema di mappe. E nel corso della puntata, tra l'altro, vi racconteremo di un sistema alternativo che invece non costa nulla perché è creato dalla gente. Ma per quale motivo le mappe stanno diventando e saranno sempre più importanti? Le mappe sono fondamentali da quando c'è stata l'ascesa di vendite degli smartphone o dei cellulari con GPS. In estrema sintesi, le mappe sono importanti perché permettono di fare business, anzi di creare un nuovo business, quindi di creare una nuova potenzialità di reddito georeferenziando i punti di interesse e i luoghi o addirittura la pubblicità. Cosa vuol dire? Vuol dire mettere sulla mappa in posizione veritiera il negozio piuttosto che il cinema, piuttosto che l'offerta nei paraggi, e quindi quando una persona passa può recarsi e sfruttare l'offerta, prendere il prodotto in quel tal negozio, eccetera. sono talmente importanti che non più di 5 anni fa Nokia ha speso 8 miliardi di euro per acquistare Navteq, che è uno dei due più grandi insieme a Teleatlas, acquistato da TomTom. Sì, poi Teleatlas, appunto, è stato integrato in TomTom e non esiste di fatto più. Esatto, e Navteq è stato integrato in Nokia, anche se Navteq continua a vendere ad altri le mappe. E quindi diventano importanti per creare un nuovo business, il business della mobilità. Io sono in giro al mio cellulare e ricevo degli stimoli. In realtà poi leggevo che, per esempio, Google era fortemente intenzionata a dare le mappe a Apple anche questo giro, quindi per utilizzarle per fare la navigazione. Non hanno trovato un accordo, perché Apple avrebbe dovuto creare una sovrastruttura software per realizzare poi le istruzioni passo passo come le voleva lei e per inserire i suoi dati. Google, a fronte di questa richiesta, diceva: vabbè, però mi fai mettere le mie funzioni, che sono Latitude piuttosto che altre. Alla fine, non trovandosi d'accordo, Apple si è rivolta a TomTom. TomTom gli ha fornito le mappe e Apple le integra anche con gli strumenti forniti da Yelp, che è questa community per poi per Apple i locali. Ha comprato anche due o tre società che si sono specializzate nella... E da qui nasce il problema. Perché se tu prendi tutti i dati dallo stesso fornitore, poiché la mappa noi la vediamo piatta, ma in realtà ogni singola porzione di mappa è una raccolta di dati sul bar che c'è in quella zona lì, piuttosto che sul numero civico, piuttosto che sul nome della via. Però quando tu inizi a integrare tante sorgenti in un'unica matrice, che è quella della mappa, gli errori aumentano in maniera proporzionale al numero di fonti di dati. Anche perché il mondo si muove, si trasforma. Il mondo si muove. Ti dico che in Italia ogni anno il 15% delle strade cambia o viene modificata o viene aggiornata o comunque cambia. Sì, insomma, basta anche un senso unico. Basta il limite di velocità, basta il cartello, come in questa zona che continuano a fare i lavori stradali, ma sono errori fisiologici, anzi endemici del software di navigazione satellitare, perché funzionano molto bene applicazioni come Waze o esperimenti tecnologici come IQ Routes e MapShare di TomTom, perché se tu ti fai aiutare da chi utilizza i software o da chi utilizza il dispositivo a migliorare le mappe, quindi raccogli dati, che è la tecnica del map matching si definisce, quindi l'utente mentre usa il software viene in qualche modo tracciato in maniera impersonale per migliorare la mappa, in questo modo raccogli molti più dati e li sistemi. Sì, tu hai citato Waze, molti ascoltatori conoscono, ma è un sistema alternativo di mappe di cui parleremo. A proposito di alternative, allora, sui prodotti, sui dispositivi Apple, oggi facendo l'aggiornamento ad iOS X6, quindi al nuovo sistema operativo, esiste il sistema di mappe di Apple. Quali sono le alternative sugli altri dispositivi? L'equivalente di iOS mappe sono per Windows Phone, su Nokia Lumia con Windows Phone, Nokia Drive. E l'altro concorrente è sui smartphone Android, Google Maps Navigatore. Questi sono i tre grandi software gratuiti. Quindi, ecco, sono gratuiti e si trovano di default, si dice. Cioè, io compro il prodotto e automaticamente mi trovo questo sistema di mappe che mi fa navigare in automobile, posso andare a piedi, eccetera, eccetera. Sì, per averlo sugli iPhone è necessario aggiornare iOS la versione 6. Su Android si trova di default, per Windows Phone si trova solo esclusivamente su Nokia Lumia, quindi solo sui telefoni di Windows Phone. E sono molto diversi, perché per esempio, ti faccio un esempio, Nokia Drive, che secondo me è il migliore in questo momento in commercio. Sì, secondo molti Nokia ha fatto un lavoro di tanti anni, per mille motivi che magari specifichiamo, è il migliore sistema. È il migliore per due fondamentali motivi. Innanzitutto, come dicevo prima, perché ha comprato Navteq. E seconda cosa, perché molti si dimenticano che nel 2006 Nokia ha speso 250 milioni di euro per comprare Gate 5. Gate 5 era una società che produceva software, si chiama Smart2Go, che 5 anni fa era uno dei migliori software di navigazione satellitare per smartphone. Aveva un'interfaccia un po' rudimentale, ma il motore era perfetto. Aggregando tutta una serie di componenti, giocando a Lego, ha creato il miglior software. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, è sempre stato ritenuto il migliore anche perché è facile e comodo da utilizzare anche offline. Sì, le mappe, a differenza di iOS Mappe e Google Navigatore, sono residenti in locale, quindi la prima volta che si attiva si possono scaricare addirittura le mappe di tutto il mondo. Offre una copertura di 110 paesi contro i 39 di Google e i 56 di iOS Mappe. Quindi le mappe sono in memoria. mentre gli altri devono essere connessi ad internet, anche se recentemente l'ha attivato anche Google Maps Navigatore e già di serie lo fa iOS Mappe, alcune porzioni della strada, comunque tutto il tragitto, vengono scaricate in memoria locale e poi effettuano il buffering, cioè i luoghi più visitati vengono tenuti memorizzati in locale, così ogni volta non devono scaricare dati da internet, mentre invece Nokia Drive li ha già tutti in locale. Senti, a questo punto io ti faccio una domanda molto semplice. Visto che stiamo parlando di quasi la totalità del mercato degli smartphone, citando i prodotti Apple, quindi con iOS 6, Google con Android, e quindi tutti i prodotti che hanno Android, e Nokia con Windows Phone, e poi magari facciamo anche un riferimento agli altri Windows Phone. Comunque, insomma, stiamo parlando della stragrande maggioranza del mercato. Perché uno dovrebbe acquistare una app a pagamento? Perché ci sono tutti i grandi produttori di navigatori, cioè intesi come strumento a parte, quello che si installa in automobile, quindi TomTom, Garmin, eccetera, eccetera, hanno anche le app che possono essere installate sugli smartphone. Ma perché uno dovrebbe pagare per avere un'app del genere? Beh, le app, fatta eccezione per Nokia Drive, che ribadisco è un'app, è un navigatore fatto e finito, e quindi l'unica cosa che gli manca è il rerouting, cioè il ricalcolo della rotta in prossimità di traffico, quindi te lo mostrano, ti fa ricaricare. Anche gli altri però esattamente, anche gli altri non ce l'hanno. Infatti gli altri software sono, posso definire, delle versioni light che vanno bene, sono gratuite, sono lì, sono gratis, vuoi arrivare dai abiti, fanno arrivare, ma per avere i servizi come il traffico in tempo reale, gli autovelox, l'aggiornamento delle mappe, perché è vero che le mappe sono online ma non sono aggiornate, quantomeno con i software di navigazione garantiscono un aggiornamento costante, quelli a pagamento un aggiornamento costante. Quindi quando si vuole elevare il livello di esperienza d'uso, di funzioni del navigatore, in quel caso bisogna spendere un po' di soldi. Ma ne vale la pena secondo te? Ma ne vale la pena principalmente per il traffico, perché alla fine, prendo un esempio, TomTom, che è il più grande ed è tra i pagamenti pagamento il più venduto e secondo me anche il migliore oggi disponibile. Sì, sicuramente TomTom con la serie Live dei PND, quindi i navigatori quelli stand alone da automobile, ma poi integrata anche nell'app che si può scaricare sugli smartphone, ha fatto un lavoro da qualche anno molto notevole, quindi informazioni del traffico in tempo reale, quindi il ricalcolo anche della strada che uno deve fare. Quindi sì, tu dici vale la pena fare un acquisto perché queste informazioni non si hanno dai navigatori che si trovano gratuiti sugli smartphone. Principalmente sì, il traffico è la funzione, la killer application oserei dire di una software di navigazione, non è molto utile vedere che una strada è rossa perché è ingolfata se poi non mi permetti di avere una traiettoria alternativa, e poi una serie di altri servizi, comunque la qualità offerta dai software di navigazione a pagamento è superiore. Nokia Drive potrebbe essere tranquillamente venduto, cioè per assurdo, se Nokia si mettesse a scrivere, ad adattare il codice per Android, per iPhone e venderlo a poche decine a pochi euro, a 10 euro, sarebbe un successo. Miliardaria probabilmente. Beh, diciamo, non lo fanno perché lo ritengono un vantaggio competitivo dei Lumia, quindi questo, spiega tutto. Tra l'altro adesso noi non so se avremo tempo per parlare di alcune caratteristiche, ad esempio di realtà aumentata, di realtà virtuale che vengono inseriti anche sulle mappe, perché oramai con alcune funzioni si possono fare delle cose molto, molto interessanti. Magari siamo in una piazza, giriamo il nostro smartphone e vediamo che nel palazzo dietro, anche se a vista non lo vediamo ma lo smartphone ce lo suggerisce, c'è un ristorante tal dei tali che stiamo cercando. Insomma. Ma ancora meglio, ancora meglio. Ti cito due software, AR Driving e Ion Road. Sono il primo per iPhone e il secondo per Android. Permettono di evitare le collisioni col veicolo che ci precede. Quindi si appoggia lo smartphone sul cruscotto attivando la fotocamera posteriore. Il software misura la distanza con una linea verde che diventa verde, rossa e gialla a seconda del livello di pericolosità, la distanza del veicolo che ci precede. Quando ci avviciniamo, quando il software rileva che ci stiamo avvicinando un po' troppo al veicolo, emette degli allarmi. Basterebbe però mantenere la distanza di sicurezza senza, però in quel caso divertente, esatto. Bene, adesso ci fermiamo per la pubblicità. Vi ricordo il nostro numero verde, se volete chiamarci in diretta, 800 24 00 24. Gli sms, anche Twitter, potete seguire @Pagliarini oppure l'account di 2024 o anche la nostra pagina Facebook, che adesso vado a leggere. Numbers, numbers. 2024 Numbers. Allora, dopo qualche problema di sicurezza è disponibile la nuova versione di Firefox. La domanda che vi facciamo questa settimana per vincere il software che vi regaliamo è: a quale numero siamo arrivati di Firefox, quindi qual è la versione aggiornata e disponibile per il download? Allora, chi risponde esattamente vince una confezione per sistema operativo Apple, quindi per Mac, di Dragon Naturally Speaking, il software di riconoscimento vocale di Nuance. Vince il primo ascoltatore che ci chiama, che chiama il nostro numero verde e risponde esattamente. Vi ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24, e la domanda è: a quale versione di Firefox siamo arrivati? Numbers, numbers, numbers. 2024. Questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini. Troverete questa puntata più tardi, entro le 18.30, all'interno del servizio podcast. Se non siete ancora abbonati, vi consiglio di abbonarvi gratuitamente a questo servizio molto utile per riascoltare le nostre puntate. La nostra email 2024, quindi 2024@radio24.it, oppure il nostro numero verde 800 24 00 24, o gli sms 349 238 6666. Abbiamo fatto una domanda molto semplice per vincere il software per Mac, Dragon Naturally Speaking di Nuance, e come dicevo, vince il primo ascoltatore che chiama il nostro numero verde e naturalmente risponde esattamente. E non si capisce perché la gente manda gli sms, quindi significa che alcuni proprio non sentono, non ascoltano. Luca, una domanda di un ascoltatore sugli altri Windows Phone. Allora, ricordiamo che alla fine del mese verrà presentato Windows Phone 8 e da novembre usciranno i primi telefoni, i primi smartphone con sistema operativo Windows Phone, che noi abbiamo più volte sottolineato essere molto bello, molto facile da utilizzare. Questo sistema operativo verrà utilizzato sicuramente dai Lumia di Nokia, dai nuovi telefoni 8X e 8S di HTC e anche da un modello di Samsung. Poi c'è qualcos'altro già annunciato in roadmap? In roadmap ancora, ancora no. Ecco, su questi telefoni, che cosa esiste? Allora, abbiamo detto che Nokia propone il Nokia Drive, Nokia Maps, eccetera, eccetera, tutto l'insieme del sistema di mappe Nokia. Che cosa c'è in Windows Phone di alternativo? Ma l'applicazione più celebre da acquistare, perché a quel punto bisogna acquistare per forza applicazioni, se non si ha un Lumia, è Navigon. Le altre sono un po' degli esperimenti. Navigon è in questo momento la migliore, costa una quarantina di euro con la mappa italiana. Però si vocifera una novità, penso bella per gli utenti, nel senso che con Windows Phone 8 Nokia potrebbe rendere disponibile il download di Nokia Drive anche per altri smartphone. Si potrebbe, dico, qualcuno online non è ancora, certo. Potrebbe essere una versione ridotta rispetto a quella attuale. Però c'è Bing a bordo. Ecco, allora, Bing come Maps, intendo Google Maps, non Google Maps navigatore, piuttosto che altri software cartografici. Io personalmente, ma secondo me non sono software di navigazione, nel senso che sono software cartografici, cioè ti permettono di vedere dove sei, di vedere i punti di interesse nei paraggi, di calcolare eventualmente un tragitto verso un punto da A a B, ma non ti danno indicazioni, cioè ti fanno vedere la strada, ma non sono interattive, quindi non fanno, creano la navigazione turn by turn, si esatto. Dice così. Ti fanno vedere così che strade. Insegniamo anche il gergo nel mondo della navigazione. Il routing si può dire anche, cioè non ti fanno vedere, non ti mostrano una mappa in maniera interattiva e che a volte devi fare, ti fanno vedere un segmento da seguire. Sì, sì. Sentiamo i nostri ascoltatori. Tony da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno, per la trasmissione niente, io sono un autista che praticamente tutti i giorni viaggio col camion e tutto quanto. E niente, prima avete detto cose che mancano ai navigatori, tante cose ancora mancano praticamente, soprattutto per le macchine no, magari è più facile, riescono ad andare nelle stradine, in tutte le strade e via, ma quei camion, per dire, alcuni adesso nuovi ce l'hanno, magari l'altezza, il peso, la larghezza e tutto il resto, cioè per non impiantati nei divieti o nei posti dove non puoi passare, ma per dire non riesci a aggiornarlo, cambiano la via, aprono zone nuove industriali, non, sui navigatori anche appena comprati nuovi non riesci per la metà delle zone industriali nuove, non riesci a trovarli. Luca, rispondiamo, che mi sembra interessante anche perché il mondo del trasporto è un mondo, è un mercato incredibile. Io penso che di proposte, di offerte ce ne siano, però... Sì, ci sono i navigatori professionali, quelli per i truck, i modelli cosiddetti truck, che tra l'altro integrano per esempio funzioni di gestione delle flotte, per cui per vedere dove si trova un autoveicolo piuttosto che un altro. In quel caso mostrano la pressione sul terreno, le altezze, i vincoli stradali, indicano le vie dove non si incappa in alcun tipo di problema. Però è vero, le mappe sono fondamentalmente le stesse degli altri navigatori, quindi anche qui ancora una volta, poiché cambiano un quinto delle mappe in Italia ogni anno, delle strade, quindi nascono rotonde come funghi, cambiano le zone industriali, bisogna aggiornare velocemente le mappe. Ha una parte di ragione, sì. L'ascoltatore. Comunque, a chi si deve rivolgere il nostro ascoltatore? TomTom e Garmin e Avimap sono i tre principali che hanno questo tipo di P&D, come si chiamano, cioè navigatori personali specialistici, che sì. Tra l'altro è il mercato più promettente per questi sì. Navigatori. Dunque, vi dicevo che esistono delle alternative e il mercato è molto interessante, quello delle mappe, anche perché molte delle potenzialità delle mappe le vedremo nei prossimi anni. Direi che adesso abbiamo visto quasi nulla, forse poco, vedremo molto nei prossimi anni. Adesso parliamo di un esperimento, potremmo dire anche il più grande esperimento di crowdsourcing, e quindi di collaborazione dei cittadini che raccolgono dati e li mettono a disposizione in rete, e anche un gran bel esperimento di open data, quindi di dati che sono messi pubblicamente in rete e possono essere riutilizzati. Parliamo di OpenStreetMap. Maurizio Napolitano è un ricercatore della Fondazione Bruno Kessler di Trento ed è uno tra i rappresentanti della comunità, della ricca comunità in Italia di OpenStreetMap. La versione più semplice per spiegare OpenStreetMap è fare il paragone con Wikipedia. OpenStreetMap è la Wikipedia delle mappe. Chiunque può andare a costruire le mappe, partecipa fornendo le proprie informazioni per costruire la mappa del mondo. Detta così, può sembrare semplice, in realtà costruire una mappa è piuttosto complicato, allora facci capire come avviene questa costruzione che parte, come tu ci hai detto, da cittadini o comunque da dati che sono disponibili pubblicamente per arrivare ad una mappa vera e propria. Certo, il processo sicuramente non è semplice, non è come Wikipedia che apri la pagina e inizi a inserire le informazioni, però proprio inserendo le informazioni c'è prima di tutto il bisogno di raccogliere le coordinate geografiche. Su questo non spendo tante parole, ma proprio tu hai detto gli smartphone, e con gli smartphone riesco a raccogliere informazioni, il GPS. Un altro modo per raccogliere informazioni per descrivere una strada è quello di avere una foto aerea e tracciarla. Queste informazioni vengono messe all'interno della piattaforma, del sistema, in cui dopo da lì ho inserito dei punti di interesse, piuttosto che una strada, piuttosto che un'area che mi descrive una casa. E tutte queste informazioni hanno bisogno di attributi, pertanto dire questo punto qua corrisponde a una fontanella, questo punto alla cassetta delle lettere, questa strada è una via piuttosto che essere un'autostrada, quest'area che ho disegnato è un parcheggio, questo qua è un edificio, e avanti di questo passo. Le informazioni, gli utenti di OpenStreetMap le raccolgono tramite GPS, le foto aeree o semplicemente con un block notice. Conoscendo molto bene il territorio, quando poi mi trovo davanti al computer vado a inserire le informazioni sul lavoro già fatto da altre persone. Senti, in Italia quante sono le persone che raccolgono dati e li mettono a disposizione della comunità di OpenStreetMap? Questa è una bellissima domanda perché è difficile fare i conti. Al momento posso dire che nel progetto OpenStreetMap sono coinvolte 700.000 persone. La comunità italiana in questo momento è una di quelle che si sta distinguendo a livello internazionale. C'è da dire che essendo un progetto internazionale, spesso capita che anche stranieri partecipano alla nostra attività. Ad esempio, la città di Roma è costruita soprattutto al contributo di un ragazzo tedesco. Ok, si è trasferito a Roma, però ha dato un gran contributo. In linea di massima, quando facciamo i nostri incontri di OpenStreetMap, adesso organizzeremo il convegno italiano di OpenStreetMap d'Italia, siamo circa 500 persone, poi di realmente attive saremo un centinaio, perché ognuno contribuisce quando ha tempo e quando può. con OpenStreetMap qual è la copertura? Allora, possiamo dire che la copertura è mondiale. Tutto dipende da quanto è forte la comunità e l'interesse. Se andiamo a vedere in zone ad alta densità urbana troviamo tantissime informazioni. A bassa densità urbana dipende quanto un OpenStreetMapper, un appassionato di OpenStreetMap, è presente. A livello nazionale il nord Italia è molto molto attivo. Verso sud Italia c'è qualche particolare dove c'è una grossa attività, ma in linea di massima al momento stiamo aspettando che ci sia anche aumenti la comunità e la partecipazione. A questo punto ti domando se e come esiste una versione da utilizzare sul computer o su uno smartphone, perché diciamo la comunità raccoglie dati che poi possono anche essere utilizzati, anzi forse questo è l'utilizzo maggiore da società che poi costruiscono vari tipi di mappe magari diverse da quelle che conosciamo tutti i giorni relativi alle strade. Magari c'è chi costruisce, poi magari tu ci aggiungerai degli altri esempi, mappe per piste da sci, per, hai fatto prima riferimento alle fontanelle dell'acqua. Ecco, che cosa può utilizzare un utente, un cittadino di questo grande lavoro che c'è dietro a OpenStreetMap? L'hai detta giusta, OpenStreetMap è la raccolta dei dati, però quello che interessa poi in fin dei conti usare tutti i giorni è la rappresentazione di questi dati, la mappa. Già sul sito www.openstreetmap.org è possibile accedere a una rappresentazione delle informazioni contenute nel database. Ci sono quattro tipologie di scelte, c'è quella standard, c'è quella che mostra invece le informazioni per le piste ciclabili, c'è quella che dà informazioni un po' più avanzate, tipo questa azienda MapQuest che ha deciso di investire in OpenStreetMap. Tra l'altro MapQuest era sul mercato ancora prima di Google Maps, ha presentato anche loro questa rappresentazione. L'utente può avere o l'accesso tramite www.openstreetmap.org oppure su tantissime realtà che sta nascendo, sia per volontà di interesse personale, sia invece per volontà aziendale, come il caso di Mapbox, CloudMade, il map questo che ho nominato prima, con interfacce completamente diverse. Sugli smartphone poi nascono sempre più applicazioni che portano anche il vantaggio di poter, dato che i dati vengono scaricati, di essere usati offline. Quindi se sono all'estero mi scarico i dati di quella zona e posso tranquillamente utilizzare i dati senza dover pagare il roaming internazionale. Poi dopo la fantasia aumenta, perché OpenStreetMap permette di raccogliere tantissime tipologie di dati diversi, e quindi abbiamo la mappa delle fontanelle, la mappa delle piste da sci, dei sistemi per costruirsi le mappe di orienteering, tutte le tipologie di dati. Ho visto anche la raccolta di informazioni sulle lampine delle strade per vedere l'intensità di luce che copre una città. Era Maurizio Napolitano, che è ricercatore alla Bruno Kessler di Trento e uno dei rappresentanti della comunità di OpenStreetMap. Un ascoltatore ci domanda giustamente come si finanzia OpenStreetMap e come fa a verificare la veridicità delle strade. Beh, allora, per la verifica del dato che viene raccolto, c'è la comunità, così come vale per Wikipedia, e il risultato finale che il sistema funziona. Quindi il crowdsourcing funziona anche per OpenStreetMap. Come si finanziano? Ci sono anche delle società, si autofinanziano con donazioni. Esiste una fondazione che regola tutto e ci sono anche delle società interessate allo sviluppo di questo software che pagano per lo sviluppo. Perché esistono delle società che sono interessate? Ve lo diciamo tra poco dopo la pubblicità. 2024. Le 16:48, perché questo servizio, chiamiamolo così, questo grande progetto di crowdsourcing di Open Data che è OpenStreetMap è importante, ed è importante anche per le aziende. Ci sono alcune aziende interessate che finanziano la fondazione. È importante perché innanzitutto i dati che vengono raccolti dai vari produttori di mappe, ognuno se li tiene per sé, quindi poi sviluppa servizi e prodotti rispetto alle esigenze e le strategie delle aziende, delle rispettive aziende. Ma poi perché ci sono mille altri tipi di mappe che si possono creare. Abbiamo fatto l'esempio, ma giusto per far capire, poi vale la fantasia per cambiare gli elementi, abbiamo fatto l'esempio delle colonnine dell'acqua, si possono creare mappe di tutti i tipi e con dati che sono disponibili gratuitamente questo è molto più semplice. Tra l'altro questo è molto più semplice per delle start-up che vogliono creare magari un servizio basato su mappe oppure una mappa particolare per chissà quale tipo di esigenza, che può farlo spendendo poche risorse perché i dati si trovano pubblicamente, sono disponibili su openstreetmap.org e da lì si parte per costruire. Quindi questo è un segnale anche molto interessante, ma questo vale in generale per tutti gli open data. Se ci fossero gratuitamente, come dovrebbero essere disponibili ad esempio i dati sui mezzi pubblici, una startup potrebbe creare un sistema per trovare il treno molto più facilmente rispetto a Pronto Treno, che è l'applicazione di Trenitalia, ma questo vale per mille altre cose. Luca, vuoi aggiungere qualcosa? È utile anche nella vita comune, per esempio nella grande distribuzione. Conad, per esempio, sta facendo un'operazione di questo tipo, cioè prendere i punti vendita, metterli su una mappa, quindi georeferenziarli, e a quel punto calcolare dove arriva il volantino, calcolare le aree coperte, effettuare delle statistiche sul tipo di clienti che entrano, su cosa comprano, su quanto c'è il ritorno del volantino, e quindi a quel punto rendere più efficiente la distribuzione del volantino e catalogare meglio, sì, il tipo di informazione, sì, che quello arriva. Che vogliamo dire è che le mappe aprono un mondo e un mercato incredibile dove si possono fare tantissime cose, cose legate al territorio, al movimento, ai luoghi dove viviamo e dove ci spostiamo. Allora, se questi dati sono aggiornati, affidabili e gratuiti, resi aperti sulla rete, tutto ciò è molto più semplice. Lauro da Modena, buongiorno. Buongiorno. Ciao Lauro. Dunque, tu hai risposto esattamente alla domanda che abbiamo fatto. Qual è la versione aggiornata di Firefox? La 16. Bravissimo, la 16. Tu sei un utente Firefox? Sì, certo. Lo uso anche per lavoro quotidianamente. Bene, allora siamo in due, ma insomma sappiamo che siamo in molti di più. Io sono molto, a me piace molto Firefox anche per la filosofia che ci sta dietro. Dunque, sì, tu sai che vinci una confezione di Dragon Naturally Speaking, che è un software di riconoscimento vocale di Nuance, versione Mac. Sì. Sei un utente Mac, quindi? No, non sono un utente Mac direttamente, o meglio, ho un iPad, ecco, non ho direttamente un Mac. Il Mac ce l'ha mio figlio, quindi penso di regalarlo a lui. Esatto, lo regalerai a tuo figlio. Senti, certo, visto che stiamo parlando di mappe, approfitto per chiederti qualcosa. Sei un utente di mappe abituale oppure raramente? Che cosa usi? No, diciamo non proprio abituale, ma abbastanza, insomma. Sì, sì, utilizzo. Beh, adesso sto utilizzando quella sull'iPad, la iOS 6. Ti trovi bene? È stata aggiornata, chiaramente, sì. Ti trovi bene? Ti piace? Sì, abbastanza, sì, sì. Subito veramente ero abituato con la versione precedente, ho avuto qualche difficoltà un po' ad adattarmi, insomma, a vedere questa nuova versione, però poi, insomma, alla fine... Certo, l'abitudine è difficile da superare a volte. Dimmi, tra l'altro... Certo. No, tra l'altro dicevo, c'è anche appunto in questa nuova versione la navigazione turn by turn, insomma, esatto, diciamo, con le indicazioni che prima invece non c'era, quindi insomma è molto comoda. Esatto, esatto. Poi naturalmente poi ho anche un altro dispositivo, un TomTom da mettere in auto che mi è stato regalato, che e quindi lo usi. Abbastanza utile anche quello, sì. Lauro, grazie innanzitutto per ascoltarci e grazie per averci chiamato. A presto. A presto. Bene, io ringrazio già da adesso, poi abbiamo un ultimo spezzone di trasmissione, Nadia Zammiti che ci ha aiutato oggi, perché poi mi dimentico verso la fine. Luca, rispondiamo a un ascoltatore che ci diceva, allora, naturalmente noi oggi abbiamo parlato delle applicazioni e dei navigatori più diffusi, ce ne sono una marea, cioè potremmo parlare per 8 ore, vabbè, però visto che un ascoltatore ci ha fatto un riferimento su Facebook a un navigatore che usa OpenStreetMap... GPS Mid è un software, un'applicazione che si trova sul sito di SourceForge e praticamente usa le mappe di OpenStreetMap per visualizzare quindi le classiche funzioni di routing, quindi da punto a punto, da A a B, piuttosto che per visualizzare punti di interesse. Si scarica da internet, è anche compatibile con PC, quindi Windows, Linux e Mac. è basato sul motore Java 2Me, mi sembra un esperimento eccellente per iniziare a utilizzare tutta la mole di dati, esatto, che ha OpenStreetMap. Esatto. C'è Stefano Sabatini che è scatenato su Facebook e ci scrive un sacco di cose, perché sicuramente sarà uno della community di OpenStreetMap. Gli appassionati naturalmente sono... Se avesse telefonato sarebbe stato più bello, perché avrebbe potuto contribuire alla nostra trasmissione. Dunque terminiamo, io ringrazio Luca Figini che oltre che a parlare a Radio 24 scrive un sacco di cose su Smartphone Magazine, su Cellulare Magazine, su portatili e tablet, Mondo Android eccetera eccetera. Quindi tutti sapete che Figini si occupa e prova ogni settimana, oltre che tablet, portatili, smartphone eccetera eccetera. Quando io voglio sapere qualcosa su uno smartphone chiamo Figini e lui normalmente mi dà una risposta. Ma io gioco in realtà, cioè, quindi certo. Grazie a Valeria Bernardi che si è occupata della parte tecnica, ad Anita Panizza in redazione. Luca, presto, buon lavoro, ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Noi ci risentiamo la prossima settimana. La prossima settimana c'è SMAO, quindi la prossima settimana saremo molto spesso ai percorsi dell'innovazione, la parte di SMAO dedicata alle start-up, perché ci sono sempre delle idee nuove da scoprire, quindi probabilmente, molto probabilmente, dopo aver visto e parlato con queste 100 startup che vengono presentate, ve ne porteremo alcune in trasmissione. Scriveteci a 2024@radio24.it e seguitemi anche su Twitter e _Pagliarini per sapere quello che succede anche a Radio 24. Noi ci risentiamo la prossima settimana, tra poco sarà disponibile la versione podcast del nostro programma. Un buon ascolto con Radio 24. 2024. 31 seconds and we're going for auto sequence start.